Buonasera a tutti, dai. Non ho fatto ascolto, infatti stavo toccando il mic perché pensavo che non ci fosse nessuno. E noi ci siamo. Suonando un po', stavo facendo le cose, quindi non ho potuto modulare. E anch'io mi sento da Alessandro. Ma che c'è? C'è Torredino a Baraglicco. Autore signor Barretta Agricola. Buonasera, sono Popolino. Leoncino, sta diventando un leone grande adesso. Giuseppe. A tu. Ma già sono tornato io adesso, dai. Beh, si sente la segnale. Scappa. Adesso, però adesso devo realizzare qualcosa. Mi metto un apparato vecchio, mi metto, almeno posso anche sentire parlare da Giuseppe. Come la modulazione a tu, la mia, guarda. Buona. Sì, cosa hai fatto? No, gli ho cambiato solo stasera, gli ho cambiato solo la capola, la cosa, là, il microfono. Va bene già. Stavolta al sentivo alternata. C'era quella cosa dentro, era mezzo complicata, capito? Beh, ragione ce l'ho lui. Cos'è già? Visto che c'avevo ragione ieri che ti sentivo alternato. Un po' alternata era. Però gli ho cambiato il microfono. Mi hanno messo una, quella là ce l'aveva grossa e io gli ho messo un'altra più piccola, capito? Quella dell'F10 gli ho messo. E va bene. Si sente bene già. Papà. Attenzione! Salvatore Panarrico, la ci sì! Circolare a tutti. Nicola, Barra e Torellino. Salutori circolari a tutti. Io ancora non ho sentito ancora le modulazioni, ancora per vedere un po' appunto quando mi arrivano qua. Appunto, vabbè, le condizioni mie sono condizioni vicino 18 stasera, visto che sono entro già in zona letto, diciamo. Ok, dai, fai allora girare già nel letto, allora dai, salutone a tutti allora. A Palippi di Baravicola, saluto l'amico di Borgo Torres, Gianluca, avanti. Ciao, io sono Salvatore Baravicola, buonasera e ben sentito. Sentito Salvatore. Con l'arrivo forte? Forte? Ma vaga. Salvatore, ma stai usando l'antenino, quello piccolino? L'antenino piccolo stai usando? L'antenino piccolo? Sì. No, non sei una grande ciò. La 5000? Ehi, la 5000, sì. Appagato. C'è il bombolino. Avanti bombolino per salutare Gianluca. Pronto, è Gianluca. Come mai non lo sento stasera? Ciao bombolino, ciao. Arriva veramente bene. Se no sono in zona, diciamo così. Sono con la deviazione del commutatore in zona letto, diciamo. Quindi sto uscendo con un baracchino semplice. Scoppiato, è a letto, sta scendo con un baracchino piccolo e semplice. Aspetta un attimo. Saluto da parte mia, Roggia. Lo senti a bombolino? Senti a bombolino, Gianluca. Senti, non lo sento io a lui. Bombolino, vai. Senti, Gianluca, cara. Vabbè, non ci posso fare niente io, purtroppo. con quella grata sta uscendo, guarda, sta uscendo anche un bembe. Sta uscendo meglio di quella grata che avevo messo io, la verità. Ma molto, molto meglio. E non ti può verticare che ho fatto, senza massa, senza nulla. È stato così com'è. Addirittura quella specie di cosa invece era gli ho messo per fare l'antenna. E i tre, quelli che sono nella sede della campeggio, quelle stecche. Una di quelle stecche, Emi. Ho capito. Quelle flessibili. Esatto, se tu vedi quell'antenna, già fatta a poco, già vale un coso, ma vale l'antenna di Vittorio Giove, se non la metti sopra quella macchina che c'è uguale. Fred è un bel Fred. Però vende quell'antenna, questo, vende parecchio. Santiago 9 mi arriva addirittura. Savonia. E come ti arriva la casa tua? A me il massimo, a fondo scala. Allora già vende un bel. Così l'antenato non ne ha più, no? Tutto a posto. No, l'antenato, no, io ce l'avevo. Ma neanche io ce l'avevo comunque. Il discorso è quello. La capsula quando la tocchi, cose del genere, faceva con lo zio. Stasera infatti mi sono accorto con lui, mi ho pensato una capsula di un vescio. Ti bagna. Ah, poi dovevi mettere i capi. Quando la testa era perfetta, era. Vabbè, Alessio. Vabbè, parlando, che ti già mi sei costato già. Ma se quel microfono già dietro lo fai, te lo dico io. Allora, tutte cose, tutta la roba mia, l'alimentatore, la capsula del microfono migliore che avevo. C'è gente del 2009, è l'antenna, e si è a posto, insomma. Sta tranquillo, cioè, già non c'è problema con te, lo sai, no? Comunque pompa un bel quel microfono, adesso pompa. Cerca di non darlo a nessuno quel cazzo di microfono, se ti spacco la testa, perché adesso quel microfono sta vendendo parecchio. Sta vendendo un bel. Giustamente, adesso è un signor microfono. Bombolino, ci sei? Troppo alto, Ma te ci sono già. Lo sentendo troppo alto. Ma non è va bene così, perché io lo sento almeno. Di radio. Soltanto per il 9 arriva a basso di segnale, ma di radio già c'è adesso. Scappa del rogero. Esce se c'è ancora Barrarricola. Attenzione, Barrarricola, ci sei? Ah, ci sono, ci sono. Com'è il mare, sabato? Vabbè. Il mare com'è, agitato, eh? Ah, qua è molto agitato, ma agitato parecchio, Ma dove sei, al terzo o al primo pettine? Al terzo sono. Al terzo, e non c'è gnocchi, no, lì non c'è, no. Ma neanche una ce ne sono. Ok. Io. È così. Ma vento c'è, sabato. No, qua sta veramente bene. Ma lo vedo, sono fuggiti, ma nel caetto. Cos'è? Quando hanno messo a barra agricola sono fuggite. Ma chi le pecore? Che da dietro non te ne esca qualcuno che ti faccia il servizio, sono la carabina, dottore. Dove sei, Baradricola? Sto lavorando, sto arando. A quest'ora? Ma dove sei, che cosa sei? Casa sono. Ma te non ho capito, allora, dopo il bip, dimmi. Vicino all'ottava sono. Ah, vicino all'ottava, sì. A quest'ora la vuoi, blu. Mi ha dato tre. Salutalo, minimo che te lo mette alle due, come che ti alza a mezzogiorno. Credo no, domani la sera sveglia alle 7. Qua sto andando perché ho tagliato i cardi con la facciatrice da fosse. E mi ho fatto attaccare l'altro per diventare i cardi. Ma forse non sono a svilupparsi. A quest'ora manco molto ce ne andate a fare una cosa del genere. Fate pagare il doppio che è meglio. solo avrei messo fuoco in capitolo, dico io. Robo, sei bigliato là, Giuseppe. Io ti ho capito. Ho detto, andate a casa, Robo, e fatti pagare di più stanotte. Sto facendo le straordinarie, cioè, veramente, c'ha proprio ragione. A mezzanotte si è fatto, sai che, anzi, no, quest'ora, non è che mezzanotte, perché non è mezzanotte. Però quest'ora sei stato letto al letto, sei stata una bella bionda alla faccia dei cardi e del terreno. Bisogna farlo, a tempo suo, quest'anno è proprio in anticipo. Sulla rapina, ma io adesso ti metti in mezzo, le ragazze ci vuole, ma con te mi buttano. va bene, già va bene. Avanti, Gianni. Allora, io volevo essere quello lì, che c'è Marcolino che si sta addormentando, se no non si addormenta più. Ci sentiamo domani. D'accordo, Gianni, ci sentiamo domani allora. Alle prossime avanti, ripetete l'Antonio. Ciao, ciao, già, dai, ci sentiamo domani. Avanti, io, Giuseppe. Ciao Gianni, buon 144, saluto il cuore, dai, e un buon trovato per domani, e riprendete voi, dai. Gappa gappa. Vabbè, Salvatore deve lavorare, altro che, perché è il periodo che si lavora, purtroppo è così. Sì, tutti i lavori sono pesanti. C'è chi lavora, ma non ho detto che c'è chi lavora di cervello, la risposta è quella. Chiappa, è che non ho fatto un cazzo, state passeggiando da mangiare la sera. E quello che era avanti il fischio chi è? Il marito. Ma no, tu sei, mi è sembrato il tuo fischio particolare. Guardi, se vuole dispensare o altro. Sì. È solo il fischio. Chiaro. Non lo so. Oh, yeah, per carità, per carità. È così. A quest'ora io stavo già girando, a girarmi le cose nella spiaggia a controllare, ma lo sai il freddo che c'è di notte? Che freddo? Un hermano da Spagna, scusi Italia, Italia, bien. Avanti, avanti, magone della Spagna, se scusi Italia. Vengo, vengo, hermano, hermano da Spagna, scusi Spagna, Italia, bien. Attento, attento, maniaco della Spagna, se scusi l'Italia. Due passo, Qui sa più italiano di me. Deve essere qualche magone, Ori. Che buffo, lo so, senz'altro. Quindi a pompa Giuseppe il microfono adesso. Ha cambiato dal tuo al mio. Cioè, dalla cazzo dalla tua alla mia. Aspettare il magone e poi lasciamo il magone. Sto pompando, capitoli. Lo sta pompando. Quella capsula tua la regaliamo a coso? Aspetta, chi è che la voleva la capsula? È un periodo che mi sarebbe valuta tanta bucciata. Sei ricco d'Antoni. Beh. Ma te dico della capsula che mi ha valutato la dare a coso? Non ci dico la verità, ma non mi ha messo un nome. Dice di questa capsula colorata, dice che questa del microfono carne più M più 3 con di più mi pare che era tutta bucca la capsula carne più 3 e la capsula carne più 3 quella che c'ho qua uguale identica quella che ho dato io a coso quella del MP della cosa carne più 3 lo stesso però è più piccola. Hai capito? In pratica è uguale, l'unica cosa che c'era il cono, per filare c'era dentro al microfono, sono dovuto togliere il cono di protezione e ce l'ho filata dentro. Zitto. MS3, non munici il microfono, che se io ce l'ho, secondo me è il migliore, è uno dei migliori che ci sia in circolazione. Io lo so, molte volte montava quella tipo di capsula, con la capra stagnola la montavano con i microfoni antichi, stati più 3, il Tecno 1115, l'Intec, quello con la gabbia di soffio in metallo, che io ce l'ho qua perché l'ho recuperato con un baracchino vecchio che era tutto arrugginito, anzi il circuito dove ando proprio messo male perché c'è passata l'acqua dentro e non ne serve più, capito? E sono riuscito a recuperare la capsula almeno. Stasera ho pensato una cosa, Giuseppe, interpretiamo questa Giuseppe, vedrai che sono sicuro che va bene, sarà un demonio, non ti azzardo. Va bene, sì. Mi a me. A me se mi ascoltatemi, Maraglicola ancora ci sei. Ehi, io vieni, mi dai cambio. Cambio passo, cambio radio. Ma che se vengo io, tanto non da due ruote. Sta andando, vai, che non ce la fai neanche a prenderlo. Ma quale marcio c'è il finale? Vero. Sì, davvero. Dai, il trattore almeno ci vuole la DE. Ma io c'ho la CCE. Sì, CQC. No, ci vuole bufa e mandica. Ma non ce l'ho. Poi te la busco. No, non la voglio. Se vuoi te la busco, come la vuoi, che non so fine. Tira. A cosa sembo? Qua serve questa cosa a bufo. Se esatto, stavo dicendo, mi quella era Sirello. Ore, ciao. Eia! Cosa sarebbe quella cosa devi procurare? Com'è? Pure vuole lui! Come? Se vuole lo faccio io il nodo, che non si sciolga! Hai piccagione! No, ma io e dopo fa un altro nodo, ma tu guarda che piccagione! Eia, per carità, lasciamolo lavorare in pace al Salvatore, sennò sbaglia trattore poi e ci esce fuori strada. Senti, Bobolino, mi ascolti? Schiappa. Salvatore, ma c'è ancora qualcosa nello stesso, sarei tornato a rimettere. Ma va bene, parlando qualcosa, Giuseppe. Evidentemente si è spostato Salvatore. Stavo vedendo un video senz'altro, a quest'ora ciuccia, a me non ferma nessuno, stato lì in campagna, cosa vuoi dire? Non ferma nessuno stanotte. Bene Salvatore, non ti credere. Qualche volta sì, ma non è un tipo che beve. Che c'entra, a quest'ora si può bere un bicchiere di vino, non c'è nessun controllo a quest'ora. Allora finito senz'altro di alare. Cosa rimane con l'acqua? Non ti credi, no, quando lavorano non ciuccia. Anch'io facevo così, quando lavoro non ciuccio, ma dopo che ho finito di lavorare adesso ciuccio. Perché sono fatto così io. Quando finisco il lavoro vado e trovo la birra, quello che è, 1, 2, 3, quello che mi pare mi piace, però prima del lavoro, anche durante il lavoro, non tocco niente. Anche perché? Beh, mi avevo un capo a ragionare, anche il candubino non ti fa ragionare bene neanche. Io per esempio non bevo mai, no, neanche anche quando sono a casa, no, non tocco nulla. Non ne compro nemmeno, ti ho visto. Io bevo solo in caso particolare. Io così, oddio, non sei abituato. io già bevo, io quando, per dire, tanto a cena avevo qualcosa, durante il lavoro non tocco niente, anche a volte senza mangiare addirittura se sto lavorando, ma non mi fate niente, quando finisco a lavorare vado e bevo quello che, per dire, due o tre bottiglie di birra, poi vado a cena, ceno con voglia di proprio di cenare, poi più mi collego tranquillo, disteso. Non è tempo tranquillo. Poi se voglio festeggiare un conto, se sono a casa mia, mi posso anche proprio a casa e festeggio con il letto di casa mia. Quando sono fuori, grazie a Dio, non sono mai diventato a pezzi, perché devo salire a piedi. E quindi sono più tranquillo. No, io non sono il tipo, insomma, che... Non bevo perché mi fa male, basta. E tu a bevi, Giuseppe? Sì. Giuseppe sarà non che pensato a quest'ora. Oppure, non lo so. Ha chiamato la madre e dire, oh, mica è mezzanotte mi, mole baracchino. Ricordate, già le 11:21. Si è appagato. Non proprio fatto, non bevo io, non bevo assolutamente. E tanto poi ho provato un paio di volte a bermi la birra, mamma mia. Io ce ne scappo e 10 ne liberi, soprattutto al caldo mi distrugge tantissimo. No, io birra congelata non ne bevo, neanche ghiacciata. Birra fresca sì. Quando finito di lavorare già la bevo, ma prima no, neanche durante il lavoro, sono fatto così io. Bevo la però non ne voglio. Prima mi faccio il mio lavoro, posso fare anche tutto il giorno senza mangiare, senza bere, per dire, non mi sbatto tutto niente. Quando finito di fare il lavoro mio, vado, mi metto seduto nel tavolo, ne posso anche prendere due o tre di birra, non ne frega niente, anche mangiamo un panino. E per dire, mi sono sempre trovato bene. Io purtroppo non sono neanche abituato a bere, io non essendo abituato mi stanca proprio, mi butta giù, non ragiono, mi hai capito? Che c'è, perché non sei abituato, se ti abitui piano piano a bere una birra qualcosa ogni tanto, magari ti trovi meglio, tutto lì. Magari non ti piace, quello ti... però è così. Anche un pedire un vinello, quello che è, come... Quando vengo in qualche... Vabbè, forse a te non ti è mai capitato, o tenere qualche cliente invitato in qualche cosa. A me invece sì. Quando venivano, quando andavano in posti di fare l'impianto di antenna, si beveva la birra, si beveva quella, si beveva quella, no, lo bevo dopo. Ma, bevo dopo. Una volta avevo finito, beh, sempre anche una birra intera, non ne frega proprio niente. E nessuno può ti fare di me niente, capito? Perché la maggior parte dei clienti, quando guardano, capito, come dire, è venuto qui, si è venuto 12 birre per dire, poi ha fatto lavoro, sono fatti così qui, sono dei cani morti, quindi quando evitare questa roba qui, bevo dopo. Se voglio, se non ce la faccio a bermela, per dire, lì davanti a loro, perché loro sono astenibili, la bottiglia birra me la bevo piano piano, me la porto via, anche la giubbagata. Un lavoro mio, questo dove è mio. Tutto lì. Chiappa. Io invece non mi voglio neanche abituare, dico la verità. Sì, già mi sono imbriacato, ma lo so solo io in domani com'ero. Non volevo visto, non volevo veramente visto. A me ero tutto schizzato a forte, non lascia perdere, già. È meglio che non mi tocchi neanche di bottiglia, perché dopo appena appena pericoloso, mi hai capito, faccio cose dell'altro mondo, no? Stravagante, no? Non mi va bene per me, dai, lasciamo stare. Per fare vino cattivo è meglio che non ne bevi, non è vero. Dipende da come ti trovi, anche se sei allegro e tranquillo fai vino buono, ma se poco a poco ti gira le palle, boh, sei fregato. Ti sale tutto l'ora, il discorso è quello. Vino cattivo no, quello no, no. giro, mi si ride in faccia, però per esempio quello ti posso dire, cioè se ti devo fare una cosa non ci penso più due volte, hai capito? E vabbè, ripeto, le persone anche, ognuno di penso dall'alto, grazie a Dio. Avanti Giuseppe. Sono qua, no, ero fanato un attimo nel consiglio Capricorino, che mi stavo leggermente sciogliendo, hai capito? La sei immaginato che sei andato a fare il cocco, chissà che puzza avrei fatto. Non la puzza, no, c'era la finestra aperta, stai tranquillo. Brutto, un attacco di cusso, non so è. Che cosa hai mangiato? Cusi? No, più la cipolla. Mamma mia. Ui, ui. Ce l'hai fatto da fare allora. Tu lo vesti sempre cosa dovresti fare. Bere un po' di birra calda. Poi mangiare di quelle, come ti posso dire, le bacciole di maiale che sono belle puzzinose quando le lasci tantie. Poi un po' di cipolla e due uova sole, tu però dove li attira dentro al bagno non ci rimani, te lo dico io quando comincia a scorreggiare. Gloria, per carità, lascia perdere. No, adesso mi dopo mi prendo un quello che dice e poi mi curico. No, io dice non ha tanto, mi ha preso oggi, niente. Sono obbligato a andare stasera a servire perché oggi mi avete fuso tutti quanti, mi avete fuso a fare queste cose qua. Sono stato attaccato a fare una cosa all'altra, la giornata, cose così, sono uscito di campo. Mi sono rilassato bevendo la birra, piano piano, cenato, domani me ne sto tranquillamente a letto, non voglio sapere niente di nessuno. Domani sono tutta la mattina trombando, sto. Fai bene Antonè. E mi tocca l'opportunità, dopo aver fatto un po' di soldi mi tocca. E se non parla fammi incappettare io, me ne faccio 50, 10 minuti e sono a posto. Tu me ne vado in discoteca. Discoteca, io faccio la discoteca. Le prego tra tu vai, buon morì. Giappa. Aspetta l'azienda, Antonè. Però una cosa di buono che ha fidato, che diventa un demonio di questo quando faccio stricchezza d'acqua. Io divento maniaco invece. Ma che fa? Nel senso che quando comincia giù a fare stricchezza d'acqua, cioè a morte proprio. Andiamo a te, bisogna che ti porto qualche giorno. Altro, di nuovo, lì a portare le bombole nella cosa. Da quella ragazza brasiliana, come si chiamava? Da Monica, ti viene di porto, per forza. Così trascende la bomba, la trascende. Probabilmente c'è una buona parola, lo manco. Ma manco fermo un po' adesso di furore. Che poco la fa il furore, cioè si è sposata. Visto che quelli gocci di fiori che ci vede Giovanni Pascoli, quel coso piccolino. Quella roba sua, ami. Dopo un rudone che sarà. No, c'è una assolutamente vera, perché lei è sposata. C'ha la figlia ed è tranquilla adesso, visto? È una delle poche, eh. È una delle poche veramente. E sta bene, veramente bene, c'è lui si arriva adesso. Non mi tagliava poco un giorno facendo la spesa dello spin. Si è fermata, oh ciao Antonio, mi ha detto, non mi non ci vediamo, mi ha detto, questa è mia suocera, me l'ha presentata. E mi ha detto, ci vieni un giorno, dice che con la tua fidanzata così vi do un paio di cose di più, ci vado a su con la busta io, si mette a vita. Sì, evidentemente si è scocciata un po', va, una delle poche. Di nata ne ha fatto, non è di mezzo a che magnato. Se ci siamo fatti per lui in vita di un anno, cioè, non so quanti anni era, ha fatto una vacca di vina. Non mi sembra 3-4 anni facendo quella roba. Comunque, li ha fatti i soldi lì. Sta bene adesso. Ha fatto il negozio di fiori per fare porta che ci sono viaggio con i pazzi come me. Quello è quasi piccolino. Lì lavora. Insieme alla socia. Ragazzi, chi ci ha guadagnato, ha fatto un dinario, non manco un bel niente, manco un bel in capo, va. Beh, è stata coraggiosa la verità, perché sono in pochi mi chiamano quel lavoro, la vita lo sai, sono molto molto pochi. Ci sono quelle che non mollano perché gli piace quel lavoro, perché guadagnano un sacco di soldi, si comprano la casa di là, dove abitano, cioè dove abitano, dove nascono, si fanno i milioni e poi se ne vanno in pensione, capito? E vivono di rendita. Invece questa qui ha preferito sposarsi con una persona che ci aveva i soldi e stava bene. La mia, è stata coraggiosa la verità. Apparentemente il suo obiettivo forse era anche quello di fare più in fretta possibile a mettersi a posto e poi andare tranquillamente, capito? Vabbè, quello sì, ma il problema sai cos'è? Che il peccato rimane sempre, no? Sai, sta sale piccole, quindi le voci circolano. Mi sono sicuro che quello là, quando gli avrà detto che c'è stata una fidanzata, la giusta parte di Silovi, come capito, mi sa la male cosa aveva pensato. Però piano piano l'aveva accettata, il discorso è quello, perché non so se siamo fatti così. Sono antica, sono. Quando vedo una persona che fa quel mestiere, mamma mia. La cucina che mi fa posto, va bene così. No, per dire una cosa normale, battere, mi lo sai anche tu, lì nascono le favela se battono da piccolini, lì è una cosa normale, ma qui è una cosa differente. Lì è stato semplicemente un paesino, non è una città, è un paesino, tutti saluti tutti e basta. È una ciofa, è uno spostamento di tutto e di più. Sembra di essere in una città di gossip, no? Quando qualcuno fa qualcosa, lo fa, lo mette in un giornale, alla cosa, anche se non ha fatto niente. Tanto sputa l'altro esco, tanto rimane. La gente ci crede, è abituata ormai a vedere cose così. Avanti Giuseppe. Sono qua. Sono sempre a buttare. Viaggio sale e scende quella cosa, a fanculo a me che ho poco mangiato. Ho mangiato? Sono fatto glutine e cipolle. Beh, si fa male. Di notte non è che riesco a digerire bene, capito? Però mi piacciono e quella la canzone a tutti. Ci voleva, se siamo nell'asilo ci voleva, però come digerivi subito, aspetta. Certo, Ci voleva, se ci aveva l'asino. Ammetto, l'avete digerito. A te, è il sindaco di Proago. A te, ammetto al corpo invece. Lui, per carità. Lui. Ma c'è ancora Tore? Trovatore, no? No, non ho sentito più. Senti, sono le 20:35. Me ne vado a letto, ci sentiamo domani mattina lì, domani sera. Statevi bene tutti e due. Antonio, buon lavoro. Giuseppe, a te ho cosa tipo di idee. Buon notte per stanotte, tanto non fai nulla peggio di me stanotte. A domani al limite. Se c'hai un euro, ci beviamo la birra. Al circo, se no piacere in quel posto. Vabbè dai, ci sentiamo domani mattina, io devo andare a fare come ci vuole mio fratello e dopo le 11 sarò lì, verso mezzogiorno là sarò lì. Vabbè, buonanotte a tutti, ciao. tanto, ciao, buonanotte, buon 144, buon trovato per domani, dai, ciao ciao, anch'io faccio quelli che dai, ciao ciao. Ciao ciao a tutti. Intendevo, non intendevo, non ho detto che stavano parlando con Antonio, non li ho riconosciuti. Giuseppe e l'altro era Antonio Popolo. Antonio Popolo? No, ce l'ho amico su Facebook Antonio Popolo, però non ci ho mai parlato. No? No, no. Caparocci. Va bene, dai, era fatto, sta fatelo. In effetti è vero, però non c'è più una stagione. Positiva la storia. Sì, allora vediamo che è positiva io. Però cioè, non ti credere che ci ho messo questi grandi batteri. Cioè, sto uscendo con 40 batteri. C'è gente che ne esce con 300 e non arriva a 9. Cioè, io sto uscendo con 40 batteri e ho superato la scala dei 9 di Santiago, Sì, lo sei, quello è vero. Io sto uscendo con 5 watt e ti arrivo abbastanza bene, E vabbè, 5 watt è sempre per un postazione fissa, me l'ho detto che l'antenna di casa non sarà mai come quella della macchina, quindi è sempre più alta la potenza che mette quando esce a confronto di un'antenna di macchina, o no? E quello è vero. Quello è vero, perde sempre qualche dB, quello è vero, dalla macchina alla stazione fissa è tutta un'altra minestra. Io penso che se ero in queste coordinate adesso con l'antenna che c'ho a casa, sarei arrivato a 9 più qui, con 4 watt, Eh sì, è la grande. Fatto il casa è leggermente più facile. E su 500 metri, però c'è sempre il monte, la pista, il monte è ancora più alto, però 500 metri d'altezza non è buccia. Ebbene, non è buccia, no, 500 metri sono parecchie. Parecchi sì, per quello è quasi sempre freddo, c'è sempre freddo. Glielo credo. Bene, dai, adesso quando mi entrano un po' di soldi, che la voglio cambiare per un'antenna, proviamo questa 5 ottavi, secondo me il risultato è quasi uguale, non propriamente uguale, ma sarà, proveremo la 5 ottavi della mano. Perché che antenna c'è tu? C'ho questa ala PC4, cioè anche la PC6, ma io non lo sapevo, prima la PC4, 1,64 m, però dipende come la regoli, comunque si è regolata a 1,60 m. Adesso è di stile, io parlo, io parlo di quello filetto in acciaio, non conto anche quella cosa nera, cioè non conto niente, solo lo stile in acciaio, sono 1,60 m. Ci ha pagato. Va bene, va bene. Ma mi ritrovo più il foglio, infatti non riesco, non so neanche quant'era in tutto il gruppo, c'era 1,5, 1,2, non lo so, non me lo ricordo bene. No, già va bene, io pure. Spara bene. Spara bene, però lo sai così, non mi piace. Questa storia, se accendo la macchina, se serve l'alternatore caricato, l'unica cosa che non riesco a debellare, infatti ogni volta che muoio lo sapevo la macchina stessa. Devi fare la schermatura, devi schermarlo, capito? E come faccio a schermarlo? Dovrei isolare tutto e quindi, quello che è il giro. Se tu vuoi una modulazione pulita devi schermare, se non schermi è ovvio che senti il motore, no? Ma ho notato dipende dal baracchino, quello, allora quello che avevo prima non viaggiava, però non si sentiva l'alternatore, questo qua invece lo sente, forse magari perché più sensibile tu. Lo squelci come ce l'hai? No, non ce l'ho adesso non ce l'ho. Ogni tanto lo provo per vedere, ma adesso lo tolgo e ci sento bene anche senza quello. Se tu hai seduto lo squelci, cosa succede? Mi senti o non mi senti? Se lo abbasso tutto non mi sento, ma giusto, allora se lo abbasso tutto e lo alzo di 3 mm allora ti sento, però non si sente sotto fondo, è sempre pulito. Poi se lo alzo tutto appunto si sente rumori di altre, il solito fracasso là, e qui a te, però adesso stai uscendo pulito, cioè come schiacci la portata, sta, poi quando svegli è pulita la radio, non lo alzo tutto. Ci ha pagato. Va bene, va bene. E tu acceso ce l'hai, cioè ovviamente se ti hanno pulito, tutto questo. No, io lo squelci ce l'ho, se abbasso tutto lo squelci non ti sento. Quindi quando non sono pulito, cioè, devi avere sempre il rumore sottofondo. schiena che quando schiaccia la portante mi sento tutto quando lascia pulita. Oh, sempre quella lo senti, capito? Ah, che strano, io invece non ce l'ho, mi sento senza questo, ma perché? Io potrei anche fare la prova, abbassare tutto lo squelch e vedere un po' se quando tu moduli ti sento. Prova a fare una prova. Guarda, adesso mi senti? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, mi sa che non mi senti, guarda. No, io ti sento, l'ho abbassato quasi al minimo e ti sento, No, ma il cacciavo rimane sempre lo stesso, soltanto che non senti il rumore dopo del sottofondo dello squelch. Io quello lo odio, va bene, così no, se quando modulo deve essere silenzioso dalla radio. Poi di giorno magari un po' di casino ci si può essere, no, in quello. Però di notte, per il silenzioso è migliore. Io faccio adesso ho mollato, quando stacco non sento le... Capito, ho passato lo squelch e il sci non lo sento più. Sento quando stacco e quando tu riprendi la modulazione, tutto lì. Se no mi sembra strano, Santiago no, che devi avere la mano dello squelch. Mi sembra strano. Santiago no, che come ti parli tra sasseri e sasseri, cioè, però noi stiamo parlando che sono chiaramente più senza sasseri, quindi già un vantaggio, va. No, ripeto, la tua radio è molto pulita, molto seria, hai fatto degli ultimi risultati, la verità si dica, perché io sono abbassato leggermente lo squelch, non sento più quelle sci che si sente, diciamo, e quando stacco è muto e quando parli ti sento abbastanza chiaro. È meglio così, dai, se no, no non è una bella storia, infatti dicevo io, ma ti sento io senza questo e non mi senti, e tu non mi stai sentendo, e già va bene così, dai, adesso vediamo poi, piano piano magari, quando è, dopo prenderò un altro barattino omologato, però sempre modificato, è importante che dietro c'è una bella l'omologazione. Comunque siamo omologato, dai, perché sono tutte di scatole, si ferma, questa cosa vuol dire, ti fanno il controllo, no, io voglio roba fuori in casa, poi avverselo, non penso che ti venga a suonare la finanza, sì. No, non ce n'è problema, io sono del parere che meno si parla di queste cose, frequenza meglio è. Non sto dicendo niente di male, non è niente di sicuro, tanto sia. Io, guarda, se mi stanno ascoltando lo sappino che io ho pagato i versamenti e ho fatto la domanda a chiacchiere, quindi per il resto sono a posto. L'unica cosa, non c'era negarselo che i baracchini non omologati ci sono, non si operano, però non nessuno vieta di fare ogni tanto una ceramicata per provare se entra la radio, comunque sia. Non vanno in galera, chi ha fatto le persone devono andare in galera io solo perché quel secondo ho fatto una radio che non è omologata. Io cosa ho fatto? Sono tutte stronzate. Lo sai quanta gente entra con le radio non omologate? Io avrei avuto salute e fortuna io. Sì, ma i famati secondo me sono tutte stupidaggini. Omologati o no, è tanto la gente, 20 anni, 30 anni sempre facendo le cose, ma fai l'omologato e basta, io. Come quella 8001, cioè le bande laterali e tutto è omologato. Quell'altro che ne so, è un Zodiac, un Maio non è omologato, è della Matisse. Ma fai, non avevi le stupidaggini, sono in Italia che possono fare le stupidaggini. Infatti, tu considera che adesso, per dire, la Spagna, la Russia, insomma tutte quelle nazioni lì possono usare lineari di alta potenza. Noi in Italia facciamo solo schifo che dobbiamo uscire con bassa potenza, perché cosa? Se io pago una tassa, pago la tassa per uscire con la alta potenza, media potenza e via dicendo. Cosa vuol dire che altro il discorso che uno debba uscire solo con quella potenza lì? Se io sto pagando la tassa, la pago, uno, per uscire la potenza che voglio, e due, perché sto pagando la tassa e posso uscire come voglio. Bravo, bravo, è quello che penso anch'io. No, il discorso che io lo leggo sui ogni notte, la prima cosa che faccio quando mi guardo un po' il sito dell'aria mattura. Non hanno allora la frequenza alta in Italia, non si può, perché ci hanno detto che disturba, dà fastidio sia alle comunicazioni radio, potrebbe, e le comunicazioni che si fanno tra baracchino e baracchino, cioè siccome qua in Italia passa un po', conosciamo due parlando, arriva un altro che è lontano e quello di lontano si sente, e chi non c'ha l'amplificatore non riesce a sentirsi perché non ha potenza, ecco qual è il disturbo per loro, capito? Invece secondo me è una cosa positiva, perché con quanto va, allora o sei a linea d'aria, allora ci si è già visto, 3 Santiago, radio già vi senti, però com'è? Basta, adesso un pochettino mi sta aiutando, se non mi aiutavo non andavi fuori, cioè non facevi molta strada, comunque si arrivava un altro. Sono più anche i santiani degli spagnoli di un mare, per propagazione, che ci fanno appetito, e noi che siamo a 50 km da Giumar ci supero e non ci sentiamo neanche. Bene, è proprio vero già, è proprio così, perché lì possono potenziare tutto e noi in Italia no? Perché facciamo schifo, cioè perché l'Italia pensa a mangiare e basta, grassarsi la canna a oro. Infatti non per questo l'impero romano è caduto, però andare molto lontano, dai, però adesso rientriamo nel discorso, è così e basta. Lo fanno per ingrassare e basta, hai sentito adesso per il Berlusconi, me l'ha detto, a me non mi interessa, non ci vado a votare, però ti do giorni, hai voluto restare di che adesso non vai a votare, ma vai a fare un culo, perché la poltrona frigge un po' a tutti, capito, una volta che si perde poi gli viene un po' male, capito. Ma dai, stavo guardando televisione, il ministro degli esteri germanico, tedesco, era un ragazzo, cioè, era giovane, aveva non ce ne aveva 60 anni, era giovane, ma se ne aveva 40. Ma sono tutta gente giovane, gente che potrebbe cambiare qualcosa, e iniziare lì, da meno di 70 non è giovane, meno di 70 non è giovane, perché per i giovani non c'è poco, sembra che tutto sia che vergogna, che qua, che là, capito? Ci sono 70 anni che secondo me sono cresciuti ancora negli anni del 43. E tutta una vergogna, tutto non sanno tabù, sì, ma per cosa sono stati laureati? Più ci sono i cazzi, sono chissà che cosa, ma non è solo cazzo. Hanno fatto vedere un filmato delle Iene, per carità uno pignorante dell'altro, gli hanno detto quanti anni compie l'Italia, no, la festa dei 200, no, uno 200, l'altro 180, mamma, manda, ma dove siamo, ma chi ci comanda, manda, e quella è destra, e quella è sinistra, non c'è né destra né sinistra, chi entra si fa i porci come di su e si aiuta la famiglia, e del resto dell'Italia, quale fa? Hai proprio ragione, facciamo solo pietà, noi facciamo solo pietà, tutto lì. Tanto che io non dico né chi, però stanno sempre a criticare gli eventi di prima, degli anni 20, degli anni 30, degli anni 40, del povero Luce, però per dire una cosa, non dovrebbe condurre un po' di vita, non può lui, dare una cosa a fare forse, eccetera. È legale, prima era illegale, adesso è legale, è un modo di fare, però tutte le cose che fanno le fanno sempre in via legale, e invece le fai tu e subito, cioè quello che voglio dire. Ci voleva un bel regime, il regime come in Spagna, in Germania, in Francia. Ma te ne rendi conto che bel regime che c'hanno? Che bella, nonostante tutto, anche l'organizzazione di pulizia, la pulizia delle strade. Io sono andato, è una cosa spettacolare. Cioè, senza allontanarsi molto, sono andato in Corsica, non c'era un buco in strada, Non c'era un buco in strada. Qua pieno di fossi, ma non fossi fino, frattini. Cioè, paragone da qua all'Italia alla Francia, è un muro enorme. È vero. Sono stato anch'io in Corsica, ti posso dire che come pulizia delle strade, pulizia dappertutto, non trovavi un pezzo di carta in giro, Veramente era una cosa molto più pulita. No, qua in Sardegna proprio, per carità, guarda. Non ci sono parole, guarda. Sardegna e negli altri posti comunque, non è che sono in Sardegna, ma non ormai l'Italia è fatta così e non cambierà mai più. E basta, tanto più andremo avanti e più sarà lo spazio. Intanto se ne entra un altro sarà la stessa cosa. Lo vedi se bisticciano tra di loro, forse magari guarda qualcosina, non è che voglio entrare nel discorso della politica, però secondo me senza Bersani, secondo me qualcosina di più lo fa. Qua non ti sto dicendo che sono di sinistra né di destra, però lo vedo un uomo molto pulito, le cose le dice in faccia, quello che deve fare le fa. E mi sembra un uomo che secondo me sempre politica fa qualche cosa per l'Italia, ma per il resto, gli altri, Positivo, ok, va bene, ciao, io ti auguro una buona notte, che domani mi devo alzare presto, tutte le prossimine, qualche tocco e ritiro da parte mia, ciao, già, alle prossimine. Va bene, positivo, dai, si è fatta anche mezzanotte e mezzo, domani, è venerdì, e si lavora, hai ragione, dai. Già ci sentiamo, dai, buon lavoro per domani e buonanotte per adesso, alle prossime, ciao. Ciao, già, buonanotte, ciao.